Thank you. pesante, quel cordoglio che soffre in ogni istante. Sì, volgi in me quei lumi che pietosi mi furono un tempo e cari, ma che dico? Il tuo amore.